In viaggio con Tommy, alla scoperta dello straordinario perduto di Gianluca Nicoletti. Siamo così arrivati alla tappa finale del nostro viaggio. Finale soltanto per quello che riguarda la realizzazione di un film. Non ci sarà probabilmente un'asta dopo il film, almeno nell'immediatezza, ma su quello che potrà accadere al momento in cui sto parlando non posso senz'altro prevederlo. Posso solo dire che è stata un'esperienza fantastica, un'esperienza indimenticabile. Girare con i figli per l'Italia in un momento che sarebbe lentamente ma inesorabilmente scemato in uno dei più tragici che noi possiamo ricordare nella nostra storia degli ultimi decenni, noi abbiamo portato un'idea che aveva in sé il germe della follia. Abbiamo rivendicato il diritto, per chi avesse cervelli diversi dalla norma, di essere apripista nella possibilità di concepire dimensioni estetiche diverse e affascinanti, per chi si sentisse invece confortato di avere un sistema di pensiero e di lettura della realtà completamente nella norma. E non ci sembrava che ci fosse momento tragicamente migliore per fare questo, proprio come il tempo in cui il mondo è entrato nell'incubo del coronavirus. E noi ricordiamo all'inizio di questa tappa quello che è stato probabilmente uno dei momenti di più profonda spensieratezza nel nostro viaggio. Era una sera in un ristorante di Ischia, ci eravamo fermati con i nostri amici, con la troupe, e improvvisamente abbiamo messo in scena un piccolo spettacolo. Il proprietario del ristorante ha preso una vecchia tromba scassata, ha cominciato a suonarla, ci ha appena raccontato di quella che era stata la sua perigliosa malattia, i suoi incidenti, insomma ci ha fatto capire che lui fosse un miracolato, e quindi lo chiamavamo il miracolato. Il miracolato suonava la tromba, un altro si è messo a suonare un pianofortino scordato, un altro ha preso una chitarra e si è messo a strimpellare, e Tommy, che non aveva nulla da suonare, ha preso un bidone con infilato un palo e una corda tesa e si è improvvisato contrabbassista. E io ho pensato bene di immortalare con il mio racconto questa sgangherata orchestrina che suggellava uno dei momenti più felici e spensierati del nostro viaggio. Il Buddha inorridisce, perché nemmeno lui può, nelle sue varie declinazioni, rendersi conto come mai esista un abominio simile, come la musica possa essere maltrattata, oltraggiata, derisa, vilipesa in questo ambiente dove il miracolato suona la tromba. Quest'uomo doveva morire tre volte resuscitato. Questo suona la chitarra. Quest'altro millanta a saper suonare il piano. Vittor Gambontempi è stato il massimo delle sue vette musicali. Tommy, che è il più serio di tutti, suona il bidone con il tubo. Suona, Tommy. Suona. Vai. Suona. C'è anche un operatore che finge di riprendere. Insomma. Au. Au. Suona, suona. Au. Yau. Ia. Non c'è proprio storia. Oh no, mi hai caduto. Terminare lo shooting del nostro film proprio nel momento in cui il paese stava cominciando a percepire l'emergenza nazionale per il coronavirus non è stato facile. Era a pochi giorni dal famoso decreto dell'8 marzo che noi avevamo necessità comunque di andare a Milano. Milano ancora era soltanto una zona in cui si sapeva che c'era un maggior margine di rischio, ma non era proibito andare a Milano. E quindi io, Tommy e Filippo abbiamo preso un treno totalmente deserto, senza nessuno dentro. Un viaggio surreale. E siamo arrivati in una città che ancora non eravamo abituati a percepire come l'unica realtà possibile al tempo del coronavirus. Stiamo scendendo la stazione centrale. sembra di scendere a Silent Hill. Quanto sa provare? Ma scendiamo qua. Questo è bloccato. Deve passare in mezzo alla gente. Ehi Tommy, via. Eccoci arrivati. Ehi Tommy, qua di qua, questa parte. Qua. Benvenuti a Silent Hill, Tommy, ti piace? E voi B. Eh? B. Io poi incazzato come un bufalo perché ho paura che si beccherà il coronavirus. A centrale non c'è nessuno, una macchina vuota, stazione centrale vuota, mai vista vuota. Guarda, non c'è nessuno, guarda. Cosa tieni? Tommy, guarda. Ciao ciao, come dove andiamo sei? Adesso? Macchia? No, macchia no. Cacci? In Albe? Bembo! Devo dire che la cosa più salubre in questo momento è andare a Milano. Esatto. Treno vuoto, ogni pisciatina viene uno e ti pulisce con la mucchina tutto. No, stazione centrale vuota, deserta, stupenda, sembra che ne so che scoppiata la bomba atomica. E noi ce ne andiamo tranquilli adesso a visitare la città deserta. Poi quando torniamo a Roma dobbiamo stare in quarantena, lo sai? Dobbiamo stare 40 giorni, non bisogna vedere nessuno. Guarda, girare il telefono che mi stiamo preoccupatissimo. Ancora c'era l'idea che si potesse scherzare, si potesse ridere. Prendevo in giro mio figlio perché era già preoccupato e vedeva probabilmente più lontano di me. Poi quando torneremo a Roma staremo 40 giorni a casa. Lo dicevo come fosse una battuta, una facezia, ma ancora a qualche giorno dal decreto dell'8 marzo non pensavamo che questo dovesse accadere. Siamo tornati a casa e infatti siamo stati 14 giorni in quarantena perché eravamo stati a Milano e nel frattempo era uscito il decreto della Regione Lazio che questo imponeva. Quindi aveva ragione Filippo e quindi io probabilmente ho fatto una scelta molto azzardata e molto rischiosa di portare i miei figli a Milano in un momento in cui probabilmente era meglio che stessero a casa. Sono passati molti giorni, abbiamo fatto la quarantena, stiamo tutti bene. Evidentemente quella scelta era di pericolo calcolato. Dovevamo finire il film e ancora nessuno diceva che fosse proibito andare a Milano. E a Milano siamo andati. Perché ci tenevo tanto? Perché a Milano dovevo incontrare Elio. Elio, il cantante, il fondatore, il personaggio chiave di Elio e le Storie Tese. È un artista universalmente conosciuto. Ma anche negli anni ho imparato a conoscerlo perché condividiamo una situazione familiare, anche se in modalità diverse, che ci ha fatto sentire molto più che semplici conoscenti. Elio l'avevo già sentito qualche tempo prima in occasione della presentazione di un suo libro e anche allora ci eravamo parlati, ci eravamo confrontati su quello che era il problema comune. Ah, ti dico alcune cose, che guarda, per questo è la sintonia, poi ti dico la fonte. I cervelli ribelli vedono la realtà con occhi diversi da chi si considera normale. Solo per pregiudizio sono assimilati al disordine o al disprezzo delle regole. C'entra con gli guard? E c'entra sì, perché come è accaduto a te, anche a me è accaduto di avere un figlio autistico e si entra necessariamente e inevitabilmente si va ad analizzare il funzionamento del cervello dell'essere umano e lì scopri un casino di cose interessanti. Diciamo che le nostre guide sono i nostri figli, sì. Balzani, se no non staremo nemmeno qui. E così siamo andati tutti assieme allo studio di Elio. Tommy si è seduto accanto all'artista nella sala incisioni e hanno cominciato a fare dei vocalizzi assieme. Eo, eo, eo, eo, eo, eo, vai. Ma lo sai l'inno? Fratelli d'Italia. No. Va bene. D'Italia. Tu vedi che gigante che è? Sì. Che ne dici questa cosa che stiamo facendo? Che è ottima, perché diciamo che se c'è una cosa in mezzo a tante che non è chiara è cosa vuol dire essere autistico. È difficilissimo. Può continuare fino a domani. Imprevedibile. Elio, a un certo punto, dopo aver duettato con Tommy, per quanto è possibile duettare con Tommy, con un ragazzo autistico che alla fine è stancato, annoiato, per farsi notare semplicemente, dà anche una manata al preziosissimo Neumann, in cui Elio ha cantato negli ultimi decenni facendolo cadere a terra. Per fortuna l'ho preso al volo e ha avuto dei momenti di terrore. Se quel microfono si fosse rovinato, mi sarei sentito mortificato per tutta la vita, a parte il dispiacere e a parte il gesto di Tommy, imprevedibile, scusabile per quanto autistico, ma un padre si sente sempre responsabile dei gesti del figlio. Invece l'ho preso al volo e fortunatamente lo abbiamo riattaccato e funzionava benissimo. Devo dire che ho passato forse il momento più tragico da quando giriamo il film, quindi lui doveva rompere l'idillio che cantava con Elio, ha dato una manata, ha buttato per terra il Neumann. Per fortuna non è successo nulla. Quindi Elio, con un estremo gesto di generosità, ha tirato fuori da una custodia la sua chitarra, la sua amata chitarra, la compagna di mille concerti, e ha deciso di metterla all'asta. L'ha firmata con un pennarello e ce la siamo portati via. Abbiamo la chitarra di Elio da poter mettere all'asta. Non ci sembrava vero. Tommy, guarda. Hai visto la chitarra di Elio? Questa la tengo a futura memoria. Facciamo una foto con Elio? Certo. Fai col tuo. No, c'è la, l'amica di te. 1500 euro. Subito voglio. Per una foto. L'amica di Filippo c'ha la macchina fotografica seria, se vuoi. Sì, era abbastanza lì. Facciamo il telefono. Chi la fa? Facciamo scattare. Ormai 6K al telefono. Chi la fai scattare? Dai. Chi se ne frega. La faccio io? Sì. Tommy, reggi questo, così contiamo. Fermo così. Tu fermo, tiello, fermo, non te muove. Ragazzi, sono 1500 euro, migliaia di euro che vanno in fumo. Guardate, 15 anni di gruppo si vede che il papà, bravo coglione, adesso c'è il coronavirus, bravo, è tossito, che hai fatto? Che hai fatto? Niente. Ah, niente, furbetto, ti mandiamo lo spallazzano. Che spasso però è uno che c'ha il sacco, siete uguali. Siamo quindi tornati a Roma e abbiamo iniziato la nostra quarantena, come era logico che fosse. Abbiamo dovuto anche montare il film. Lo abbiamo montato da casa, a distanza. Massimiliano Sbrolla, che è regista, a casa sua, tra l'altro era anche raffreddato, e io a casa mia. Si può montare un film a distanza? Sì, si può fare. Ci si collega, ci si passa i file, lui monta, io vedo, io preparo la mia voce fuori campo del commento, e siamo riusciti a farlo. È stato un miracolo di realizzazione. E adesso che mi sto guardando il film, mi piace pensare, vedere ogni minuto, ogni difficoltà, gli ultimi giorni pesantissimi in cui sembrava che tutto stesse crollare, ma ancora non era crollato, era nell'aria, e tutti pensavamo che fosse un allarme esagerato, che poi sarebbe finita, che sarebbe rimasto tutto circoscritto soltanto a poche zone d'Italia. Poi il virus è arrivato dappertutto, e mentre vi parlo ancora sono sigillato dentro casa e ancora non so cosa faremo, dove andremo, come finiremo. Possiamo soltanto continuare il nostro lavoro, io lo sto facendo da casa, trasmetto il mio programma alla radio, Massimiliano sta facendo anche lui il suo lavoro da casa sua per quello che può fare, e stiamo aspettando che accada qualcosa. So soltanto che questo film andrà in onda il 2 aprile su Sky Arte, e quindi il nostro lavoro avrà avuto un senso. Non sappiamo ancora se ci sarà l'asta, lo ripeto, è ancora tutto da stabilire e nessuno può vedere il futuro, soprattutto oggi, in cui l'unico futuro su cui possiamo veramente fare affidamento è quello che accadrà da qui a mezz'ora, da qui a un'ora, da qui a stasera, se parliamo nel pomeriggio. Mi piace ricordare un altro momento importante, secondo me, nel nostro film, proprio legato alla capacità di Tommy di trasfigurare artisticamente, secondo il suo punto di vista, secondo la sua mano da ragazzo autistico, quello che vede. Tommy per un periodo ha frequentato il liceo artistico, poi ha cambiato scuola perché non eravamo contenti e è andato da un'altra parte a fare un istituto agrario, ha cominciato a imparare a piantare zucchine, carote, cavolfiori e insalata. E pensavamo che fosse per lui più utile che usare i pennelli, anche perché nei primi anni di liceo artistico non è che ne aveva presi molto in mano. Ancora non avevamo immaginato che lui potesse veramente dipingere, e ogni tanto ci chiamavano i professori preoccupatissimi che dovevano gestire un ragazzo autistico. Evidentemente non era proprio la più affinata delle loro attitudini. Un giorno ci chiamò una professoressa e ci disse che ci sarebbe stata la lezione di nudo per i ragazzi del corso di Tommy. Era molto imbarazzata perché non sapeva se Tommy poteva vedere una modella nuda e si poneva il problema se un autistico, allora Tommy avrà avuto già 17-18 anni, potesse vedere una modella nuda. Gli dicemmo che secondo noi Tommy non aveva problemi, per lui non esisteva malizia, non vedeva nulla di strano, di singolare, non aveva ancora la percezione del senso della diversità di un corpo femminile da un corpo maschile, perlomeno se vedeva le differenze per lui non erano motivo di turbamento. Io penso che il suo immaginario erotico si susciti più guardando il cartone animato della principessa o guardando La Bella e la Bestia quando balla, ma evidentemente tanti erano i pregiudizi di queste professoresse che gli fecero dare soltanto una sbirciata, ma tanto bastò perché Tommy facesse un disegno bellissimo di una donna nuda, si vedono i seni e si vedeva lei seduta su una specie di posto a concio per essere vista da tutta la classe, è pieno di poesia, pieno di delicatezza, e ancora conserviamo quel disegno, anzi la nostra amica se l'ha appesa sotto il caminetto, tanto gli piaceva. Ma io volevo a distanza di qualche anno ripetere, in un momento in cui abbiamo scoperto la vena artistica di Tommy, la sua capacità di gestire l'immagine di una donna nuda. Ci siamo rivolti a un'amica che è un'artista nota, che vive a Roma, è Cristina Milakovic, che già aveva dato modo di avere contatto con Tommy. Durante una scena del film c'è Tommy che dipinge un grande quadro nell'atelier che abbiamo appena comperato, siede in questo luogo spoglio, desolato, dalle pareti umide, ovunque c'è desolazione e disperazione, l'unica finestra aperta verso l'immaginazione, verso il sogno e verso l'illusione che lì diventerà qualcos'altro è una grande tela di 2 metri per 2 che abbiamo attaccato a una di quelle pareti, e Tommy con una tuta bianca con pennelli lì colora un paesaggio bellissimo con delle case e con un orizzonte. E allora fu Cristina ad aiutarci a trovare le strumentazioni giuste, le tecniche giuste, la maniera giusta per far dipingere Tommy, con una troupe che lo riprendeva. E quando vedrete il film, vedrete che è una delle scene belle di questo film, in cui si accende un luogo desolato, delesto dell'immaginazione di Tommy. Beh, con Cristina ci siamo accordati e abbiamo preso un appuntamento nel suo atelier, nella sua galleria a Vicolo dei Bovari a Roma, dove lei avrebbe convocato una vera modella, Mariangela Imbrenda, che di mestiere fa la modella e quindi è abituata a posare, e avrebbe detto se fosse stata disposta a posare nuda per un ragazzo autistico. Mariangela non ha avuto nessun problema, però abbiamo preparato il set perché la scena avesse un senso anche dal punto di vista della ripresa per il nostro film. Abbiamo preparato al piano alto dell'atelier di Cristina Mariangela. Mariangela si è spogliata, si è messa su quella specie di podio su cui sta la modella per essere ripresa da tutti gli artisti, si è messa in una posa tipica in cui si mette lei quando viene ripresa, e bianca, bella, nuda completamente, senza nessun'ombra di malizia, è rimasta lì immobile. E poi abbiamo fatto al Chuck salire Tommy dalle scale e volevamo vedere quale sarebbe stata la sua impressione, l'effetto che avrebbe fatto su di lui a distanza di anni. Ormai Tommy comincia a essere grande, ha 22 anni e mezzo, e quindi è un uomo che vede improvvisamente una donna nuda. Cosa avrebbe fatto Tommy? Chuck, io ce l'ho qua. Nudo Atelier Take 1. Un attimo, lo chiamo io. Vai, chiama. Tommy, vieni a fare il disegno. Eccoci qua, Tommy. Siamo arrivati nell'atelier. Bravo. Ci sediamo. Vediamo un po' come colori. Vediamo cappuccino e la matita. Giochiamo un po' con cappuccino. Adesso è chiaro scuro su questo. Sì. Prendi quello nero e facciamo un po' di chiaro scuro. Guarda dove è scuro e dove è chiaro. Da dietro, la parte dietro, vedi che è tutto scuro. E quindi, ancora una volta, Tommy ci ha sorpreso per la sua estrema serietà. Tommy ha fatto quello che avrebbe fatto un qualsiasi artista. È salito, si è seduto al cavalletto, ha preso il carboncino e sotto l'indicazione di Cristina ha cominciato a disegnare. E ha fatto tantissimi disegni di Mariangela nuda, disegni bellissimi in cui la rappresentava in varie pose e la guardava con il distacco tipico dell'artista che in quel momento vede nella modella non una donna, non un corpo, non un oggetto di desiderio, ma semplicemente un modello di bellezza da riprodurre, da interpretare. E Tommy l'ha riprodotta e l'ha interpretata, dimostrando una grande maturità e un grande, profondo, istintivo senso di quello che è il suo ruolo. Tommy è perfettamente consapevole quando davanti a un cavalletto, una tela, dei colori, dei pennelli, un modello, lui è l'artista e deve soltanto dipingere e disegnare. Ci sei? Sì. Sotto? Sì. Oddio, ma c'hai l'audio? Da più lungo, vocalizzo lungo. Basta, le devo tolle palle.